Siamo al telefono con Pollio. Ciao intanto e grazie Ciao. Mille della disponibilità. Come stai? Grazie a voi, sto bene e contento di risentirvi. Allora, dopo 9 anni di silenzio discografico, che sono un bel po', torni con Dopo la bomba. Ecco, come mai così tanti anni di silenzio e cosa ti ha spinto a tornare nel 2026? Allora, gli anni di silenzio sono anche parte del titolo di questo disco, quindi varie bombe, che sono state un po' bombe positive, alcune negative, altre globali, che le abbiamo viste tutte purtroppo, alcune vere, belliche, altre invece diciamo più sociali, cose esplose, cambiamenti. Quindi in questi 9 anni che mi hanno non allontanato dalla musica, perché ho continuato a suonare e fare altri progetti, ma non ho pubblicato più cose mie, quindi che per me era l'attività principale, la cosa per cui ho deciso di fare musica era scrivere canzoni. A un certo punto ho sentito che, diciamo, dopo anche la vittoria Musicultura, tutto quanto, nel 19 poi avevo portato avanti questo bellissimo progetto che era De André 2.0, dove abbiamo fatto dei grandi locali, tutti belli pieni, rifacendo De André e Rock Alternative, e per il 2020 aspettavo di riuscire con la mia roba nuova. Poi è arrivato il Covid ed eccola un'altra bomba, e mentre perdo il lavoro, come tanti musicisti e tanti altri artisti o lavoratori, diciamo, del mondo dell'arte e della creatività, ho perso il mio lavoro, mi è nato anche ci è nato un figlio, un'altra bomba, questa volta stupenda, una grande bomba di gioia, di felicità, e quindi un altro sconvolgimento. Questo album quindi nasce per raccontare tutte quelle cose che quando avvengono non puoi più tornare indietro, quelle cose che non puoi far finta di non aver visto, no? E mi ha fatto riflettere che tanti sono stati i traumi, le convalescenze che abbiamo dovuto affrontare, no? Negli ultimi 20 anni, anche alcuni finti, alcuni annunciati, e la crisi, e mica la crisi, e le guerre, e i cambiamenti proprio nel mondo del lavoro, l'era digitale che ci ha travolti con i suoi pregi e i suoi difetti. E quindi ho pensato però che questo titolo, Dopo la bomba, potesse raccogliere proprio questo post bomba, cioè il fatto che noi alla fine queste cose le superiamo a volte senza neanche rendercene conto, e che possono anche darci un qualcosa di buono, cioè se le interiorizziamo bene possono magari renderci più forti o farci capire che, imboccandoci le maniche, possiamo dare una svolta alle nostre vite comunque, anche quando ci sembra difficile. Ecco, questo album voleva parlare un po' di questo. Cavoli, un sacco di temi condensate poi in 7 canzoni. Ecco, in Humus, che è il tuo ultimo album appunto di ormai 9 anni fa, c'erano testi comunque intimi e profondi, ma anche universali e politici in qualche modo. Ecco, in questo album riesci a mantenere questa modalità di racconto, o cosa è cambiato nel tuo modo di narrazione, ecco, nelle canzoni? Credo che in questo album io abbia continuato ad approfondire questa mia caratteristica di fondere il globale e il personale in maniera così, come se fossero tutta la stessa narrazione, no? Cioè mettere gli ingredienti sia di ciò che io sento da fuori, sia di quello che sento dentro, e farne poi delle canzoni che riescano a toccare questi temi. Lo facevo già con Humus, penso che in questo album la cosa sia andata ancora più a fondo, cioè proprio si è sviluppata proprio questa parte che tu stai sottolineando, e infatti c'è molta quotidianità all'interno di queste canzoni, nonostante il respiro di ciò che dico, e certe anche piccole denunce o critiche sociali siano invece molto più globali che personali. Però in questo caso proprio i due mondi sono molto incastrati, come se fosse un unico groviglio che io con queste canzoni cerco di sbrogliare. Giusto per darci un assaggio di Dopo la bomba, ti va di scegliere una canzone che ce l'ascoltiamo, così poi continuiamo a raccontare questo album? Certo, allora proviamo con La percentuale. Allora, torniamo sempre con Pollio, sempre parlando di Dopo la bomba, secondo album solista dopo una lunga esperienza con una band che erano gli Io Drama. Ecco, com'è stato questo passaggio da solista, e cosa cambia anche magari da lavorare in full band a diventare solista? Allora, gli Io Drama sono stati la grande formazione, la grande scuola, quella cosa che succede quando hai quell'età lì, ok? Per certi versi andare in tour per così tante date, in quel furgone, tutti insieme, no? È un'esperienza veramente, cioè, lo dico spesso, è stato il militare che non ho fatto, l'Erasmus che non ho fatto, le esperienze che non avrei vissuto in altri modi. È stata un'esperienza super formativa dal punto di vista artistico e umano. Vero è che ci siamo incontrati sulla via, che avevamo tra i 18 e i 20 anni. A 30 anni suonati, le cose diventano un po' più difficili per una band. E penso che questo non riguardi solo gli Io Drama, ma vedo che è un trend abbastanza diffuso, perché del resto le band sono una cosa super vera, fatta da persone vere, che a un certo punto si ritrovano ad affrontare problematiche molto concrete, molto reali. E quindi a un certo punto forse, ecco, la band non era più per nessuno di noi la strada da seguire. Sapevamo di aver dato il meglio, sempre coesi, fino all'ultimo. Quando ci siamo accorti che quell'entusiasmo stava cominciando a venire meno, abbiamo preferito sospendere, cioè abbiamo preferito che ognuno prendesse la sua via. E tra l'altro l'ultimo album degli Odrama si intitola Non resta che perdersi, perché un po' forse sapevamo che, nonostante il dolore, quella fosse l'unica soluzione per ridare linfa vitale a tutti noi dal punto di vista artistico. Nel mio caso specifico io non ho mai pensato di smettere di scrivere canzoni, e come le scrivevo con gli Odrama, dopo mi è sembrato naturale continuarle a scrivere. Un po' meno naturale è stato considerarsi solista. Qui infatti, se in Humus è vero che ero solista, ma ancora avevo uno strascico. Gli Odrama avevano fatto l'ultimo concerto un annetto e mezzo prima, ancora ero molto impregnato di Odrama, mentre questo disco è proprio, invece, oserei dire, anche se è il mio secondo disco da solista, è veramente il primo che è puramente solista dal punto di vista mentale, proprio mio. L'approccio mio è stato di totale libertà, di totale rigore artistico e stilistico, ma anche grande apertura, quindi mi sono sentito libero di poter scegliere e fare quello che volevo. Quindi questo passaggio è stato graduale, ci è voluto molto tempo. Era un passaggio necessario, e non sono infatti l'unico degli Odrama che ha continuato poi con altri progetti. Ecco, sei rimasto in buoni rapporti col resto della band comunque? Sì, sono rimasti in buoni rapporti, e con alcuni di loro, tra l'altro Giuseppe Magnelli, da chitarrista degli Odrama, che aveva sostituito il chitarrista prima, quindi che è arrivato sul finire degli Odrama, è stato il mio socio in tutto e lo è tuttora. Oltre che scrivere i brani insieme a me, è una presenza costante, e quindi con lui, oltre che in ottimi rapporti, sono rimasto ancora più di prima in un rapporto di collaborazione artistica continua. Con Mamo, ad esempio, il batterista degli Odrama, invece abbiamo fatto tutto il progetto De Andrea 2.0, quindi non solo siamo rimasti in buoni rapporti anche con lui, ma cerchiamo sempre, quando possiamo, di solcare qualche palco insieme. Allora, il 30 gennaio hai presentato l'album all'Arci Bellezza a Milano con Full Band. Ecco, come è stato tornare dal vivo, e c'è già qualcosa a cui stai lavorando per i prossimi mesi? Potremo vederti da qualche parte? Al Bellezza è stato... Immaginavo che potesse essere potente, non pensavo potesse essere così potente. È stata una cosa veramente, una festa collettiva. Le persone sono arrivate lì con una gioia che si sentiva, si toccava. I musicisti, io gli devo fare un monumento, si sono impegnati in tutto e per tutto, soprattutto nelle prove prima, a inventare insieme a me questo live che doveva appunto mettere un punto anche stilistico, no? Per far capire che tornavamo, e tornavamo per un motivo. Tutta la squadra, dalle luci a tutti quelli del Bellezza, erano tutti veramente molto entusiasti, quindi è stata un'iniezione di entusiasmo che desideravo, ma che non mi aspettavo potesse arrivare così forte. In seguito a quello sono ovviamente cominciate un pochino di, visto che era un release party, non avevamo annunciato nessun tour, però visto come è andato live si sono cominciate a muovere un po' di cose, e con ogni probabilità, anzi alcune date sono già chiuse, altre no, e le stiamo trattando, partirà adesso con la primavera, dopo metà marzo, una serie di concerti nel resto d'Italia. Stiamo provando anche col full band, ma nel frattempo porteremo, in occasione dell'uscita del vinile, in giro un po' in qualche data in Italia, delle date in solo e duo, quindi io e Giuseppe Magnelli. Noi non vediamo l'ora di sapere queste date, sperando che ci sarà anche qualcosa nel bolognese, insomma, che io sono sempre molto entusiasta quando riusciamo a vederci, perché poi Bologna è assolutamente in trattativa, e non posso annunciare nulla perché ovviamente non vorrei creare false aspettative, ma sì, Bologna ovviamente l'abbiamo considerata immediatamente. Perfetto, grazie mille Fabri, io sono sempre molto contento quando riusciamo a sentirci, oltretutto, e per salutarci ti chiederei se hai voglia di scegliere un'altra canzone dal tuo album Dopo la Bomba, per darci appuntamento a un prossimo live e intanto iniziare a pregustare questo nuovo album. Vai, allora andiamo con Mi sei mancata tanto. Anche tu. Perfetto, anche ce voi. L'ascoltiamo, e grazie mille, grazie mille, grazie davvero. Grazie, ciao Mauro, ciao.